Il cavallo e il lupo, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Un lupo, nella dolce primavera, quando i prati la mite aura rinnova ed escono gli animali alla pastura, un lupo, dico, andando all'avventura, in mezzo a un praticello, vide un cavallo abbandonato e bello. «Buon pro», disse fra sé, «a chi saprà servirselo per cena? Se invece di caval fosse montone, sarebbe quel boccone che più conviene a me, che piglierei d'un salto e senza pena». «Ma qui», soggiunge il ghiotto, «ci vuol malizia, e a passi misurati viene innanzi e si spaccia a lui per dotto discepolo d'Ippocrate, che sa guarire i mali più invecchiati col semplice decotto dell'erbe che conosce ad una, sia detto senza alcuna vanteria, come se fosse nato in spezieria. Quando un caval va così slegato, gli dice, in mezzo al prato, in medicina questo è un gran segnale che egli si sente male. Se don Poledro vuole che io lo visiti, prometto di guarirlo gratis, s'intende, senza obbligazione. Se vuoi saper, risposegli il cavallo, ci ho una pustema grossa sotto un piede, e il medico burlone. Ahimè, son mali seri e che richiedono qualche operazione un po' pericolosa. Ma non importa, credi all'arte mia, io so la chirurgia e servo dei cavalli cavalieri. E mentre il furbacchiotto si avvicina per stringere il malato, questi, che odora il fiato all'animal sapiente, gli stiaffa in viso un calcio sì potente che il naso gli manda in broda e i denti e le mascelle gli dischioda. Il lupo nel patir disse in suo core: «Fornaio fa il fornaio, ognuno il suo mestier faccia per quale del cielo è destinato. Un lupo nato ad esser macellaio sarà sempre un gran povero speziale». Fine della favola Il cavallo e il lupo. Questa registrazione è di dominio pubblico.